Europa 24. Buongiorno ancora da Gigi Donelli. La Commissione UE ha denunciato l'Italia alla Corte di Giustizia Europea per la mancata attuazione della direttiva 2010 sui test animali. Il termine era scaduto a novembre del 2012. Il commissario per l'ambiente Potocnik ha chiesto una multa da 150.000 euro al giorno dalla data della sentenza della Corte se l'Italia non si adeguerà immediatamente. Risposta ancora una volta nel braccio di ferro, diciamo, verbale tra Israele e l'Unione Europea. Non penso ci sia un qualsiasi argomento sul quale ci siamo sbilanciati. Così Lars Faborg Andersen, ambasciatore dell'UE in Israele, ha risposto alle recenti critiche del primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo cui l'Europa si comporta in maniera ipocrita sulle colonie ebraiche e non equilibrata rispetto ai palestinesi. Una questione che va avanti ormai da qualche settimana. E ora crisi siriana. La crisi siriana e la faticosissima trattativa in corso in questi giorni in Svizzera, ma anche con un aspetto che tocca in maniera particolare la Commissione. Infatti la commissaria svedese agli affari interni ha parlato di una forte presenza di giovani soldati europei nelle file dei jihadisti. In lotta contro Assad, 1.500-2.000 europei starebbero combattendo a fianco degli estremisti, soprattutto francesi, almeno 250, alcuni, stando ai dati in possesso della Commissione europea, sarebbero minorenni, belgi 200 e britannici. Il dato viene diffuso dal commissario europeo agli affari interni, Cecilia Malmström. Per voce del commissario, la preoccupazione per i rischi anche di attacchi terroristici in Europa. Secondo gli ultimi dati, Vienna, Nizza e Bruxelles sarebbero i centri di smistamento dove accorrono anche i ceceni. Sul fronte interno, in Siria, intanto continuano a morire persone e aumenta l'allarme per i profughi. Per darvi la dimensione del disastro, basti dire che da luglio scorso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha smesso di contare i morti. Il numero resta tristemente fermo a quota 100.000. Non ci sono fonti certe, non c'è copertura giornalistica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo sport, una passione globale ma anche una tradizione molto forte in vari campi, in varie discipline appunto della cultura europea, anche però un modo per combattere la crisi, un comparto produttivo che impiega più di 7 milioni di persone nell'Unione e produce un reddito, un PIL da 294 miliardi di euro l'anno. Allora Dario Ricci ce ne spiega, ne ha parlato anzi con il vicepresidente della Commissione europea Tajani e ci racconta appunto in che modo questa forza può essere ancora potenziata. Dire sport in Europa non significa solo sport agonistico. Con i suoi 249 miliardi di euro fatturati annualmente, circa il 3,5% della popolazione europea impiegata nel settore, lo sport rappresenta infatti un'importante industria europea. Cifre che hanno spinto il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, a promuovere un incontro, poi un gruppo di lavoro qualificato e un piano d'azione per rafforzare ulteriormente il legame tra sport, università e industria nei Paesi membri. Obiettivo: ottimizzare risorse, sinergie e creare occupazione. I numeri potenziali ci sono. Basti ricordare che per l'organizzazione degli europei di calcio 2016 in Francia sono previsti circa 2 miliardi di investimenti. Si stima poi che i viaggi internazionali effettuati nel mondo ogni anno per assistere a eventi sportivi siano fra i 12 e i 15 milioni, in crescita del 6% nei prossimi anni. Inglesi, italiani e spagnoli sono tra gli europei che più si spostano per lo sport. Per agevolare il turismo legato proprio allo sport, la Commissione europea intende facilitare il rilascio dei visti d'ingresso a scopo turistico, anche in vista degli europei di Francia 2016 e dell'Expo milanese 2015. Lo sviluppo dell'industria sportiva sarà poi al centro del Forum europeo dello sport, che si terrà a Roma in settembre durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto, Europa 24 torna domani, ora la linea va a Carlo Genta. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.